Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Eccoci, siamo pronti, buona domenica a tutti voi e naturalmente auguri a tutte le donne, li facciamo. Ieri abbiamo fatto una puntata dedicata alle ragazze con la partecipazione di due strepitose artiste, musiciste come Giovanna Famulari e Silvia Manco, ma siamo qui per il soundcheck di oggi, quindi buon pomeriggio a tutti da Giorgio Telesforo, buon pomeriggio a Francesco Tromba, come va? Tutto bene, buon pomeriggio e auguri a Hai fatto un regalino alla tua fidanzata? Sì, il classico Le mimose, fiore, madonna, sì. Che vergogna. Proprio le mimose? Sì. Che tra l'altro hai preso qui nel giardino di fronte allo studio. Sì, quindi certo, figurati, costo dai. Zero. Va bene. Allora, intanto, ma chi è? Ehi, Mauro, permesso. Scusatemi. Mauro, ma tu dovevi venire più tardi. Vieni, vieni. Ah, Maestro Ottolini, ospite della seconda parte del soundcheck. Ciao Mauro, benvenuto. Ma buongiorno. Che è successo? Ah, guarda, sono arrivato in anticipo col mio camper e l'ho parcheggiato qua sotto nel parcheggio dello studio. Non so se ho fatto bene. Col camper sei venuto? Certo, io col mio camper giro sempre con quello. I miei strumenti, ho portato tutto. Vabbè, allora intanto ti puoi accomodare, ma come stai? Perché tu hai viaggiato tutta la notte per raggiungerci. In realtà ci vorrebbe un pisolino, cosa dici? Fai buttati qua, tipo stai qui. Sì, ti metti qui, vicino al Burlitzer, stai tranquillo. Vabbè, il maestro Mauro Ottolini che sarà protagonista della seconda parte del nostro soundcheck, quella che inizierà alle 19:15, per presentarlo, dico subito Mauro, no? Tu vieni qui perché ci presenti un nuovo progetto con la tua band Sousaphonics. A me piace tantissimo intanto il titolo, è un titolo speciale per noi, Musica per una società senza pensieri volume 1, perché poi prossimamente, credo a luglio, sarà pubblicato il volume secondo, ma ne parleremo con Mauro più tardi. Adesso, come stai? Sei stanco? Adesso farò un piccolo riposino intanto che chiacchierate, vi ascolto così col volume al minimo. Va bene, quando finisce la puntata io magari ti sveglio, andiamo a mangiare qualcosa e poi torniamo per fare la seconda parte. Va bene, scusate, il maestro Ottolini comunque siamo sicuri che è presente e possiamo andare avanti con l'appuntamento del soundcheck. Allora, oggi la festa della donna, vogliamo parlare delle ragazze? Sì, sì, parliamo delle ragazze. Anche magari del ruolo della donna nella musica. E ieri abbiamo anticipato l'argomento, è stata una puntata molto, molto carina con Giovanna Famulari e Silvia Manco. Perché? Che cosa volevi dirmi, scusa? No, volevo dire come appunto il ruolo della donna viene sempre sottovalutato nella musica. Spesso alle donne non viene concessa la notorietà che meritano, perché comunque hanno dato anche loro il loro personale contributo alla storia certo. della musica. Tra l'altro io aspettavo il maestro Ottolini con la signora. Purtroppo Vanessa è stata male in questi giorni, però diciamo porterò i vostri saluti e porto i suoi saluti. Grazie, allora noi poi parleremo anche di Vanessa Tagliabue, che è una artista anche lei completa, ma ne parleremo nella seconda parte insieme a Mauro Ottolini, nostro ospite qui al soundcheck. Allora, certo, la donna protagonista della musica, però ancora viene a meno che non si tratti di star. Sì, diciamo che c'è proprio questa completa disparità: o diventi una vera e propria superstar e poi ti vendichi, come fa Mary J. Blige, che ce l'ha con tutti gli uomini, esatto, come ad esempio può succedere nel jazz con Didi Bridgewater, che ormai è diventata una star planetaria, possiamo dire, o anche nel pop con Bjork, che è diventata appunto attrice, artista tutto tondo, completa. Sì, e poi però ci sono comunque tutta anche soprattutto nella storia del jazz dei nomi che non vengono quasi mai citati, se non magari da alcuni storici proprio del jazz. Soprattutto quando si parla delle origini del jazz, perché invece oggi ci sono ragazze che stanno in qualche modo cambiando l'evoluzione anche di questa musica, per dirne una è Speranza Spalding. Sì. Ecco, allora io direi di dare il via alla puntata non con la voce di una ragazza, ma quella del signor Raheem Devoghan, album nuovissimo tantissimo perché ho scelto questo brano, perché si intitola Queen e quindi per lui la sua donna è una vera e propria regina a casa. Sì, ma questo diciamo è un ruolo che hanno ricoperto per anni e anni, magari non è proprio il ruolo di cui vorremmo parlare noi. Comunque, Queen, Raheem Devogan al soundcheck di Radio 24. Questo è il soundcheck di Radio 24 con Giorgio Telesforo, Francesco Tromba. Io dovrei parlare anche sottovoce perché il maestro Mauro Tolini, che sarà presente nella seconda parte, sta facendo un pisolino, però d'altra parte dobbiamo utilizzare il tono tipico della radio. Sì, però... Ma vedo che ha il sonno profondo. sì, ha viaggiato in camper tutta la notte per raggiungerci tutto il giorno. Va bene, andiamo avanti. Ci sono dei concerti la prossima settimana, Francesco? Sì, a proposito di donne, già questa sera ci sarà Joan Baez al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Ma scusami, quanti anni ha? Mi sa vicina sulla settantina. Sulla settantina. Sì. Il martedì 10 invece sarà all'Auditorium Parco della Musica di Roma e il 12 all'Arcimboldi di Milano. Continuando con le donne, sempre questa sera ci sarà Sarah Jane Morrison alla Sala del Carmine di Massa Lombarda. Sarah Jane Morris. Sì, Morris, scusami. Sì. Mentre sabato 14 sarà alla Marte Mediateca a Cava dei Tirreni. Continuando sempre con le donne, questa sera sempre Cristina Donà sarà al Retro Novo di Messina, martedì 10 invece sarà al Teatro Biondo di Palermo e sabato 14 al Centro Stabile di Cultura di San Vito di Leguzzano. Allora, continuiamo con la musica, eccola qui una grande voce contemporanea, ne abbiamo parlato, il disco nuovo di Ledisi in versione acustica, il brano si intitola I Blame You, Ledisi al soundcheck. I'm just not the same. They say I'm walking different, talking different. It's like all of me has changed. The magic that's in my eyes, I can no longer hide. Soundcheck. Il suono della musica. Sì, lei è una delle nostre preferite, la stiamo suonando da un po', si chiama Shaina Steel, acquistate il suo nuovo album, si intitola Rise, brano Coulda Had Me, con la partecipazione di suo marito al pianoforte David Cook, e i due sono stati in tournée in Europa per quasi un mese con diversi concerti in Italia e anche, mi sembra, una partecipazione a un programma televisivo della Rai, però noi non ce l'abbiamo fatta, più volte abbiamo tentato un collegamento via Skype per fare anche un'intervista per qui per il nostro soundcheck, ma non ce l'abbiamo fatta. Comunque abbiamo preso un appuntamento a New York a fine maggio. Tu sai che io mi sposto a New York a fine maggio. Eh sì, verso la fine del programma. Dell'anno. No, infatti andrò a New York proprio anche per realizzare probabilmente le ultime due o tre puntate del nostro soundcheck in diretta dagli Stati Uniti. Ce la farò? Sì, dai. Ci proviamo perlomeno. Dunque, si intitola Rise, il nuovo album di Shina Steele, ancora una volta protagonista del nostro soundcheck. E ci sono altri concerti la prossima settimana? Sì, ci sono anche altri concerti. Ad esempio, lunedì 9 ci sarà Ornella Vanoni al Teatro Agusteo di Napoli. Sempre il 9 Sam Smith, vincitore del Grammy, Grammy Awards, ha vinto tutto lui, all'Alcatraz di Milano. Sempre il 9 Enrico Pieranunzi insieme a Federico Casagrande all'Auditorium Parco della Musica. Martedì 10 invece i Blonde Red Dead all'Hiroshima Mon Amour di Torino, e il 13 saranno al Bronson di Ravenna, mentre il 14 si sposteranno a Firenze al Viper Theater. Ecco, abbiamo accennato prima al talento di Esperanza Spalding, bellissima ragazza che viene dalla Berklee School of Music di Boston, dove ha studiato con un bel full credit. Lo sai che significa? No. Non lo sai? Mi manca. È che quando hai talento da vendere, le scuole importanti negli Stati Uniti ti danno la possibilità di poter studiare gratuitamente, e quindi gli hanno dato vitto, alloggio, stiratura e asciugatura, però insomma lei ha ripagato queste attenzioni vincendo il Grammy Award e continuando a frequentare la scuola anche come docente e insegnante. Eccellente contrabbassista, brava pianista, musicista versatile, voce infinita, anche se non è una delle mie preferite, però con la voce suona come uno strumento. Sì, e poi è migliorata proprio a vista d'orecchio, potremmo dire. Sì, come il vino buono, sì, come un bell'amarone. Sì. Allora, Esperanza Spalding arriva al soundcheck con un classico del suo repertorio recente, il brano si intitola Radio Song. Soundcheck. Il suono della musica. Un'altra protagonista al femminile, Michelle and the Gay Ocello con Comet Come to Me, e lei mi piace da sempre, dal primo album prodotto per lei da Madonna ormai nei primi anni 90, è diventata una musicista di riferimento non solo per il suo strumento, bassista elettrica eccezionale, stimata da tutti a partire da Marcus Miller che l'ha anche richiesta nelle sue pubblicazioni discografiche, ma poi è una una fucina di idee. Ogni produzione, ogni album ha un suono nuovo e un nuovo concept. Michelle al soundcheck, che prestissimo sarà in tournée con uno dei nostri cantanti preferiti, ovvero Alan Hampton. E queste sono notizie che ho saputo dal mio amico Leo Sidran, che mi aggiorna su tutto quello che succede lì a New York, visto che ci devo andare anch'io. Magari se riesci un'intervistina con Michelle? Magari. Speriamo proprio di sì, magari, staremo a vedere. Tanto la prima cosa che fai quando arrivi a New York è comprare il Village Voice. Compri quello, questa bella pubblicazione che ti spiega che cosa devi andare a cercare di musica, spettacoli, ristoranti e tutto quello che è l'intrattenimento a New York City. Quindi sarebbero degli squilli di tromba. Gli squilli di tromba, ecco, torniamo agli squilli di tromba. Che c'è invece in Italia? Giovedì 12 Carmen Sousa sarà al Blue Note di Milano, mentre venerdì 13 Goran Bregovic sarà all'Obiol di Firenze e il 14 al Nuovo Teatro Carisport di Cesena. Bregovic l'America l'ha trovata in Italia però. Sì, è sempre vero? In Italia sempre a suonare, in qualsiasi stagione, con qualsiasi tempo. Devo dire, io l'ho anche visto un paio di volte, molto coinvolgente. È entusiasmante, sì, è vero. Con la sua orchestra non ti fa stare fermo. Sì, che poi non ricordo il nome, però è l'orchestra che è fatta per tutto, per i matrimoni, i funerali e i battesimi. Per qualsiasi cosa, per qualsiasi occasione. Sì, lo chiami e viene. E continuiamo con la banda Bardò il 13 all'Estragon di Bologna, il 14 all'Afterlife di Perugia. Ecco, allora vogliamo mandare una voce giovane? Sì. Forse la tua preferita. Chi è? Hai provato a contattarla? La signorina Navran? Sì, ho provato due volte, però non mi ha risposto, non mi ha considerato. E come mai? Ma forse sarà impegnata a registrare, a fare concerti. Sì, si chiama Amber Navran, la voce solista, ma è anche una bravissima sassofonista, diplomata lì all'Università della California, dove ha incontrato Andris Mattsson e Max Brick, che sono gli altri due componenti dei Moonchild, che è una delle nostre band preferite in questo momento. Sì, e l'abbiamo trovata ancora una volta su Bandcamp. Bandcamp. Il futuro sta lì? A quanto pare sì. Pare di sì. I'll Make It Easy, Moonchild al Soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. Siete sempre collegati con il Groove Master Studio per il Soundcheck di Radio 24 in questa giornata delle donne. Naturalmente abbiamo parlato ieri delle donne, no? Sì, ecco, quindi oggi semplicemente. Oggi invece, soprattutto nella seconda parte, parleremo di un formidabile musicista italiano che sta riposando sul divanetto. Lo vedo che ci guarda, non capisce di cosa stiamo parlando, però il nostro Mauro Ottolini è arrivato qui nello studio e quindi nella seconda parte parleremo della sua strepitosa band su Sussaphonics e di questo album recentissimo intitolato Musica per una società senza pensieri, quindi, e parleremo di jazz ma di musica. Poi nel disco c'è di tutto, Sì, sì, qualsiasi tipo di influenza. E tra l'altro voglio chiedergli se ha preso lezioni di ballo a Mauro, perché ha ideato una nuova danza, Chubanga. Dopo la Macarena e come si chiama quell'altra? La Macarena è? La Lambada. La Lambada c'è la Chubanga di Mauro Ottolini, ma ne parleremo con lui più tardi. Allora, ci sono altri concerti da vedere in giro? In Italia abbiamo chiuso, mi sa. Sì, in Italia. Bene, abbiamo... quelli che potevamo segnalare li abbiamo segnalati. Ad esempio a New York lunedì 9 ci sarà Sting al Webster Hall. Vedi? E invece l'11 ci sarà D'Angelo insieme ai suoi Vanguard al Best Buy Theater. Quando questo? L'11, mercoledì 11 marzo. Mercoledì. Mi sa che te lo perdi per quando... me lo perdo, che devo fare? Sabato 14 invece ci sarà Bjork all'Isaac Stern Auditorium. Sempre il 14 ci saranno anche Lauryn Hill al The Cutting Room. Ecco, poi uno si chiede perché devo andare a New York se sono un appassionato di musica. Ecco la risposta. Sì, infatti. Sempre il 14 ci sarà anche Diana Krall al Beacon Theater. Tutti lì? Sì, tutti insieme, nello stesso giorno, tutti. Tra l'altro. Se invece volete rimanere in Europa, a Londra ad esempio stasera ci sarà Ravi Coltrane al Ronnie Scott, mentre lunedì 9 Franco Battiato e Joe Petty alla Scala. L'11 e il 12 José González sempre alla Scala. Il 14 Caribou alla O2 Academy di Brixton. Ecco, e quella è una sala pazzesca. Sì, sala pazzesca. Allora, chissà se a Londra in questi giorni c'è anche una performance di Jarrod Lawson, artista americano, ma il successo lo ha trovato in Inghilterra con il nuovo album. Ve l'abbiamo presentato e vi facciamo ascoltare proprio la traccia che apre questa bellissima produzione per questo vocalist pianista che ci sta dando delle belle soddisfazioni. Sì, ti posso dire che già l'11 e il 12 di aprile a Londra, suonerà a Londra, però i biglietti sono già tutti esauriti. Per Jarrod Lawson. Sì, bravissimo, è anche un bel ragazzo, una specie di Caccamo. Sì, va bene. Music and its magical ways. Jarrod Lawson al Soundcheck. Welcome. Let this music make its way. That's where you will find, and you will know my good nor would you give care. abbiamo ancora pochi minuti a nostra disposizione, mio caro Francesco Tromba, direi di svegliare il maestro Tolini. No, lo vedo, Mauro, ti sei ripreso un po', in questi tre quarti d'ora, no? Hai sonnecchiato. Volevo chiedere, Gesù, ce l'hai un accappatoio da prestarmi, che mi faccio una bella doccia adesso, prima... Sì, no, te la faccio fare, anzi, fai una doccia veloce, l'accappatoio lo trovi lì, vedi, nell'armadio che trovi lì, trovi tutti gli accappatoi, di che colore lo vuoi? Ma diciamo con delle sfumature rossastre. Ti do quello che ha usato Robert Glasper. Naturalmente non è stato lavato, però è impregnato di note. Meglio così. Allora, Mauro Tolini, nostro ospite nella seconda parte, andiamo a mangiare qualcosa. Mauro, e quindi, caro Francesco, tu resti o vai via? Resto, se mi volete, resto. No, certo, devi restare. Hai preparato la scheda bio del maestro Tolini? Certo. Voglio vedere che cosa ci racconterai. Allora, chiudiamo questa prima parte sempre con Jarrod Lawson, ma forse dalla sua prima esperienza discografica, o comunque quella che ha permesso a tutti noi di conoscere il suo talento, ovvero in compagnia del trombettista Farnell Newton. Il brano si intitola Everything is Clear, qui al Soundcheck di Radio 24, a più tardi alle 19:15 con Mauro Tolini, Sousaphonics, per presentare Musica per una società senza pensieri. Speriamo sia così. Soundcheck, il suono della musica, di Gegè Telesforo. Siamo pronti per la seconda parte del soundcheck di questa domenica festa della donna, e naturalmente non potevamo smentirci. Non abbiamo invitato una bella donna, ma un peso massimo del jazz e della musica del nostro paese, un creatore di suoni, di melodie, di arrangiamenti, insomma un artista al 100%. Noi abbiamo avuto, devo dire, poche occasioni per incontrarci, però io più volte ti ho mandato i miei saluti e i miei omaggi attraverso molti amici e molti colleghi, e spero siano arrivati a destinazione, e la destinazione è rappresentata qui dalla figura del maestro Mauro Tolini, nostro ospite. Eccoci qua. Grazie, un caro saluto a tutti, e per me è un onore, Gigè, vederti di persona e conoscerti. Sì, puoi toccarmi, toccami. Ecco, fin da quando ero piccino, che ti sei, questo non per farti sentire vecchio, ma... No, l'hai fatto, ci sei riuscito, in parte quanto... ci sei riuscito, dai. No, sei molto carino, Mauro, tu per raggiungerci hai utilizzato il tuo camper, mezzo che col quale ti sposti in tournée, e che hai parcheggiato, devo dire, non benissimo qui avanti al nostro studio, però va bene. Ti ho prestato l'accappatoio, hai fatto una doccia, adesso sei fresco, rasato, è pulito come una rosa, pronto per la nostra intervista. È un piacere incontrarti, però per presentare la tua arte agli amici di Radio 24 direi che il nostro Francesco Tromba, mi auguro, sì, tu abbia presentato una scheda. Sì. Beh, certo. Velocemente, no? Allora, punto di riferimento per il trombone jazz in Italia, Mauro Tolini è anche uno dei musicisti più importanti sempre nell'ambito delle Blue Note. Dopo aver lasciato l'orchestra di Verona, ha contribuito ad arricchire la musica italiana anche sul versante pop, collaborando con alcuni artisti, ma tipo Malika Ayane e Negramaro. Però il jazz rimane comunque il suo terreno ideale. Infatti ha creato un collettivo musicale chiamato Sousaphonics, con il quale ha prodotto, ad esempio, un omaggio a Big Spiderbeck, un omaggio a Buster Keaton, The Sky Above Braddock, che è l'ultimo Musica per una società senza pensieri. E infatti è questo l'album che oggi presentiamo al Soundcheck, il volume 1, perché è pronto anche il volume 2. Ma parliamo del volume Uno che hai presentato già da un po' alla critica, alla stampa, agli appassionati di musica, con un bellissimo cartone animato pubblicato su YouTube. Cartone animato che racconta Chubanga. Che cos'è Chubanga? Allora, innanzitutto questo cartone animato racconta la storia dell'imperatore Chaku, che è realmente esistito nel 1400 ed è un personaggio che scoprì le doti della pianta del tè e la fece diventare una pianta importante e preziosa merce di scambio, insomma, diciamo. E noi ci siamo immaginati ai giorni nostri un antenato del re Chaku, proprietario di questa isola in mezzo al mare, dove noi purtroppo con il nostro aereo jet personale ci crolliamo sopra e siamo rapiti da una tribù che ci vuole mettere arrosto, diciamo. Nel pentolone, esattamente. Classico pentolone. E lì magicamente inizia questa danza tribale, il Chubanga, e se noi riusciremo a sopravvivere, a interpretare con la nostra capacità, a ballare, a cantare, a suonare sulle note di questo Chubanga, avremo la vita salva, e altrimenti saremo condannati a morte. Ma appena i nostri eroi iniziano a toccare gli strumenti, gli animali della foresta si mobilitano, tutti, diciamo, gli afroamericani vengono in soccorso di questi poveri europei. Sì, succede quello che succede con la musica buona, si abbattono tutte le barriere. Esattamente, tutti diventano fratelli, amici, e c'è una grande festa. E via, e si balla a tempo di Chubanga. Allora, ascoltiamo Chubanga, la follia creativa e meravigliosa di Mauro Ottolini con i suoi Sousaphonics qui al Soundcheck di Radio 24. Chiesto al maestro Mauro Ottolini, nostro ospite qui per presentarci Musica per una società senza pensieri volume 1, di mostrarmi i passi tipici e fondamentali per questa danza tribale chiamata Chubanga, brano che troverete in questo nuovo album spettacolare, pieno di suoni, pieno di idee. È eseguito tra l'altro magistralmente da un organico che ormai è insieme da un po' di tempo, no? Sì, sono ormai più di una decina d'anni, diciamo, che c'è questo collettivo Sousaphonics, dove però, ecco, diciamo che spesso e volentieri vanno e vengono dei musicisti che sono ospiti e fanno parte magari per particolari progetti, come in questo caso abbiamo ampliato un po' la formazione, aggiungendo alcuni magari suonatori di strumenti particolari come David Brutti, che suona il sassofono basso, per esempio. E abbiamo, beh, anche tu, insomma, ti diverti, hai una serie di tubi a tua disposizione. Sì, io suono tutti i miei tubi, infatti, diciamo. Ho visto anche, c'è scritto tubista, nel senso che suoni la tuba, no, però tubista, quindi chissà, magari per un musicista di jazz avere un secondo lavoro come idraulico potrebbe essere una scappatoia, no? Soprattutto per lui, che magari è proprio pratico. No, stiamo scherzando, lo possiamo fare perché Mauro è naturalmente dotato di un elemento fondamentale per chi fa musica e per chi fa jazz, che è il senso dello humor. Senti, allora, trombonista, tubista e anche suonatore di conchiglie, come il tuo maestro? Beh, come il grande Steve Turre, che è stato mio maestro ed amico, anche, insomma, che mi ha insegnato per primo innanzitutto a costruire le conchiglie, a cacciarle, no? A cacciarle, a costruire, a sbranare l'interno, il frutto e poi a farne uno strumento. Senti, allora ne parliamo fra pochissimo, perché voglio farti ascoltare una versione di Caravan, il cavallo di battaglia dell'orchestra di Duke Ellington, per la voce di Cyril Aimé, giovane interprete americana, ma questa è una versione molto divertente, molto carina. Stars above that shine so bright, the mystery of their fading light that shines up in her caravan. Sleep up on my shoulders as we creep across the sand so I may keep this memory of our caravan. Soundcheck, il suono della musica. Y'a pas d'espoir sur le ciel où je vis. Son reflet dans la flaque ramasse pas les soucis. Ni les pierres de la rue n'entend plus les absents de ma voix qui se perd dans le noir. Les musiciens qui s'aiment se rencontrent à Paris et jouent la chanson de leur cœur dans la nuit. Les pas sur l'enfant se transforment en danse et mon fils sur. Questo è uno dei miei brani preferiti fra quelli presenti in Musica per una società senza pensieri volume 1 di Mauro Ottolini, nostro ospite qui al Soundcheck, brano intitolato Yves l'accordioniste, e brano scritto proprio da Mauro in compagnia di una bellissima signora. Sì, in compagnia di Vanessa Tagliabue York, che è anche interprete di questo brano, che canta in questo disco, addirittura canta in diverse lingue, in 12 lingue diverse, compreso l'arabo, il russo, insomma è stata molto brava. Ti dirò di più che per studiare anche il suono di queste lingue ci siamo addentrati nel mondo della fonetica, esatto. Al Tomatis, per esempio, abbiamo fatto degli studi su come fosse importante il suono della voce per enfatizzare alcune parole, per esempio, di queste lingue che non fanno parte dei nostri suoni abituali. Ecco, tu hai suonato di tutto, insomma, sei stato in orchestra lì a Verona, hai studiato, sei un appassionato di jazz, hai suonato con molti artisti del pop, sei un appassionato di cartoni animati, realizzi cartoni animati per promuovere la tua musica, ma dove trovi il tempo, visto che poi viaggi in camper e quindi nei trasferimenti ci vogliono 6-7 ore pure, dove trovi il tempo per fare tutto questo, Mau? Grazie, diciamo che ci vuole una grande passione, perché io non insegno, non suono con pochissime altre persone, cerco di concentrarmi su quelle cose che mi piacciono molto e diciamo ce la metto tutta. Qualche volta qualche pezzo l'ho scritto anche in camper, ti dirò la verità, perché c'è sempre una piccola tastierina lì nascosta che certo, stai chiuso lì, che devi fare? Non si sa mai che arriva il momento dell'ispirazione, ci fermiamo immediatamente. Francesco, hai qualche domanda per Mauro? Sì, una delle cose di cui sono più invidioso in assoluto sono le basette. Anni di esperienza. Mauro, allora, insomma, nel disco ci sono suoni diversi, ci fai fare un bel viaggio e mi hai detto che nel volume 2 il viaggio sarà fatto ai Caraibi. Sì, diciamo, la musica diventa un po' più caraibica e addirittura io e Vanessa, che siamo in copertina sia nel primo volume che nel secondo, balliamo stavolta su una spiaggia di Haiti e la nostra pelle è magicamente diventata nera, perché il nostro DNA con la musica si è trasformato, si trasforma, e ci ha fatto diventare quello che dovremmo essere stati fin dalla nascita, due afroamericani. Allora, ti faccio ascoltare adesso un signore, anche lui è un musicista che ormai da quando aveva 15-16 anni gira il mondo in lungo e in largo con grandissimi consensi, appassionato di swing manouche, anzi proprio è di quell'origine lì, e quindi di chi ti sto parlando? Ma secondo me di un altro camperista, sarà Birelli Lagrin. Sì, Birelli Lagrin, camperista anche lui. No, beh, immagino. Certo. Nomade comunque, nomade. After You've Gone, un classico del jazz rivisitato da Birelli Lagrin qui al Soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. Do, Song, Mauro Ottolini con i suoi Sousaphonics qui al Soundcheck da Musica per una società senza pensieri, pubblicato dalle edizioni del Parco della Musica, distribuzione Egea nel nostro paese, album registrato assolutamente dal vivo. Sì, è stato registrato dal vivo proprio lì all'auditorium in occasione di recording studio e poi mixato insomma successivamente, è passato quasi un anno nel frattempo. Infatti questo lavoro doveva uscire nel 2014 in occasione del 50° anniversario delle Folk Song di Luciano Berio, che è un'opera che io amo tantissimo. E niente, quindi invece è uscito adesso, ma sono contento, benvenuto, una cosa divertente anche. Ecco, tu giri tanto, fai tanti concerti, adesso non vorrei annunciarli, però dove possiamo trovare in internet i riferimenti per seguirti dal vivo? Beh, potete vedere sulla pagina Facebook, sulla nostra fanpage, Sousaphonics, o Mauro Ottolini, Sousaphonics, e trovate sempre tutto aggiornato. Anzi, potete vedere anche i nostri cartoni animati, addirittura il film che si trova in questo concept, che è stato realizzato dal regista Francesco Crapanzano, e è un documentario che documenta appunto il nostro viaggio alla ricerca di suoni. Quindi abbiamo Sciola, lo scultore che suona le sue pietre, Mondo Usai, un altro artigiano che vive dentro una foresta e costruisce gli strumenti con le zucche, con le banane, con quanto di più strano possa esistere in natura. Senti, che fai adesso? Rimonti sul camper e torni a casa? Ma io direi che... Dove stai te? A Milano, a Verona? Dove vivi? Beh, io abito a Peschiera del Garda, in vicino al lago. Adesso ti fai 7-8 ore di camper. Ma adesso io riparterò e pian piano mi fermerò a mangiare una bella bisteccona. Vabbè, quella ce la possiamo mangiare insieme e poi magari parti subito dopo, no? Sì, ascolterò un po' di musica, perché ti dirò che viaggiare in camper è come essere in un piccolo studio dove ti isoli dai rumori esterni, e a volte gli ascolti più belli li ho fatti proprio guidando e ascoltando la radio del camper. È stato un vero piacere, Mauro, averti nostro ospite. Spero di vedere dal vivo questa band strepitosa e di ascoltare dal vivo il repertorio presente in questo album, che vi sorprenderà, ve lo ripeto, si intitola Musica per una società senza pensieri, e vorrei chiudere proprio l'appuntamento facendovi ascoltare la traccia che apre questa bellissima produzione, un brano scritto da Paolo Botti intitolato Febbre Gialla, e qui ci spostiamo proprio in Oriente con i suoni e caratteristici di quel percorso sonoro e geografico. Allora, grazie a Francesco Tromba per la partecipazione. Sei affascinato dalla presenza del maestro Ottolini? Sì, l'ho seguito più volte in concerto ed è uno dei miei trombonisti preferiti in assoluto. Mauro, grazie tantissimo. Grazie a te, Gegè, grazie dell'ospitalità. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Ecco, Febbre Gialla, lo sentiamo in sottofondo. Noi ci risentiamo per il prossimo weekend. Come sempre, sabato l'appuntamento è alle 19:30, giusto? Sabato alle 19:30. 19:14. Mazza, sei precisissimo. 19:14 saremo qui, e poi il doppio appuntamento della domenica 15:30 e alle 19:15. E qui non ho sbagliato. Sì, giusto. A tutti voi buona serata e buon weekend. No, buon weekend, è finito il weekend. Buona settimana e buona musica da Gegè Telesforo. Grazie, Mauro. Grazie a voi. Ho sempre sognato di farlo con te. E l'hai fatto.